finestra lì, chiudete un po' la finestra, la porta finestra. È chiusa? Grazie. Dunque mi premeva, buongiorno a tutti anzitutto, mi premeva di creare, di farvi capire la differenza tra queste due famiglie, quindi, che aveva Baudelaire, no? In cui il perno è questa madre doppia, madre, moglie del padre di Baudelaire, ora defunto, e madre, moglie dell'usurpatore, del generale Opic. Ricorderete quella frase che scrisse Flaubert, poi bisogna fucilare il generale Opic. È il grande mito di Edipo, in cui naturalmente si vuol giacere con la propria madre, forse il più forte, più intenso mito della storia dell'umanità, quello di Edipo. Si vuole uccidere il proprio padre e giacere con la propria madre, di cui naturalmente si potrebbe dire moltissimo, si potrebbe dire moltissimo. Cosa vuol dire giacere con la propria madre poi? Il sesso è la base della nostra esistenza, ma quando dico giacere con la propria madre significa proprio rientrare a contatto con l'origine. Un significato poco investigato del mito di Edipo è proprio questo, no? Quando uno nasce ed entra nel mondo è in una condizione di dolore, di difficoltà. Il bambino, si diceva, piange quando viene al mondo, quindi l'idea di poter tornare all'origine, di poter in qualche modo recuperare l'equilibrio che si è interrotto con la nascita, è certamente uno dei significati del mito di Edipo. La mamma è tua, l'abbiamo detto ormai molte volte, il fatto che ci sia un uomo che si impadronisce di tua madre, questo è intollerabile. Le due famiglie sono quindi fatte, la famiglia buona e quella cattiva. Quella buona è mamma, solo mamma, non moglie di Opic, poi Mariette, la nutrice, in qualche modo la governante, va bene, e poi Edgar Allan Poe. Mentre dall'altra parte c'è la madre cattiva, la madre moglie di Opic, c'è Opic, il fratellastro Alphonse, il fratellastro, e poi naturalmente, non so se ho dimenticato qualcosa, ho dimenticato qualcuno? Sì, un padre morto. Un padre morto, mi pare di aver dimenticato qualcuno. Vedete, bravo. E Ansel, tra i cattivi, Ansel naturalmente, che era il tutore che doveva occuparsi. Questo del padre morto, ho fatto un lapsus interessante, perché ho dimenticato il padre morto. Sapete, i padri non contano molto nella vita di un essere umano. Quello che conta è la madre. Ma ascoltate bene, però se il padre non c'è, allora la sua assenza conta molto. Ho conosciuto persone nella vita il cui padre non era stato da loro conosciuto, o aveva avuto era morto anzitempo, un amico mio, il padre si era suicidato, eccetera, e avevano passato la vita nel cercare di sapere chi era il proprio padre. Cioè la madre è la figura fondamentale. E il padre è un qualcosa di molto diverso. Il padre diventa un fattore culturale. E se c'è, magari non lo valuti quanto conta, ma se non c'è, l'assenza lo senti moltissimo. Questo bambino, che era Charles, si trovò nell'estate del 27 a vivere solo con sua madre. Viveva solo con sua madre in una villetta che era stata comprata ancora dalla bonanza del padre, appunto, quindi Opic non è ancora apparso, apparirà l'anno dopo, a Neuilly-sur-Seine, che sarebbe vicino, alla, non dico la periferia, adesso sarebbe la periferia di Parigi, insomma. Chi è stato di voi a Parigi? quindi avete presente a Parigi il Bois de Boulogne, ecco, vicino al Bois de Boulogne, che adesso è quasi nel centro di Parigi, allora invece era abbastanza periferico. In questa villetta lui sta ed è padrone di sua madre. Questo è uno dei sogni che un bambino ha, quello di potersi impadronire di sua madre. Impadronire di sua madre. Ed è un sogno che non ci abbandona poi mai, sia pure in modo trasposto nella vita. Perché quando uno si sposa, per esempio, si mette insieme a una donna, insomma il confronto, che lo voglia o no, che sia acculturato o no, il confronto con la madre è inevitabile, oggetto anche di infinite storielle, barzellette, chi fa meglio cucina, te o mia madre, questi sono dei discorsi che hanno afflitto le nuore di tutti i tempi. Su questo contatto esclusivo, Baudelaire ha scritto una delle sue poesie più mirabili. Sarebbe interessante fare una piccola notazione sulla mirabilità, se possiamo usare questo concetto, sulla mirabilità dell'arte, no? Tu la riprendi 1000, 10, 20.000 volte, 30.000 volte, la cosa ti appare sempre di assoluta perfezione. A un certo momento, questo è un piccolo inciso che volevo fare, la cosa di bellezza, il particolare di bellezza, quello di cui Keats, il poeta romantico, diceva: "The thing of beauty is a joy forever." Una cosa di bellezza è una gioia per sempre. A un certo momento tu ti rendi conto di ripetere questa cosa bella dentro di te, mettiamoci un testo letterario, quasi meccanicamente. Hai perso il contatto con questa bellezza nel ripeterlo meccanicamente, ma se tu ti rifermi a considerarla, mi seguite bene, ritorni a provare le stesse cose. Io posso dire: che fai tu luna in cielo, che fai silenziosa luna, che è il celeberrimo incipit del canto notturno del pastore errante nell'Asia dei leopardi. Insomma, posso perdere il senso di questa bellezza, ma poi se rifletto a quella solitudine di quel che, proprio solitudine sulla pagina, di quel che fai tu luna in cielo, dimmi che fai silenziosa luna. È una sensazione analoga mi viene nel leggere questa poesia con voi. Una poesia, come vi dico, mirabile, di cui adesso cerchiamo di dare non solo lettura, ma naturalmente di darvi debitamente contezza. Una poesia in cui c'è tutto Baudelaire, intenso, perfetto, non mastichi la gomma americana in te, perfetta, impeccabile dal punto di vista formale. Ma sentite come da dentro viene una specie di fuoco. Sono parole approssimative, come tutte le descrizioni estetiche. Sia che io parli di Bach, o parli di un quadro di Turner, o di Baudelaire, le parole sono approssimative. Ma alla fine ci inoltrano, le parole della critica, ci inoltrano nella bellezza di questa poesia. Questa poesia è dedicata e riguarda la madre. Lui non le ha dato titolo anche a questa e a quella successiva. Il motivo è semplice, perché non voleva contaminare, diceva proprio così, la sua famiglia con queste che erano cose sue. La famiglia era innominabile, la famiglia era innominabile perché sacra. Ecco perché la poesia non ha titolo, se non quello ovviamente che le deriva dal primo verso. E il primo indimenticabile verso è "Je ne pas oublié". Quando avrete letto questa poesia, naturalmente la prima lettura non dà nulla, vi darò un commento, ma ricordatevi di quello che vi dico, sono quelle poesie su cui si torna per tutta la vita. Lo dico detto senza alcuna enfasi, ma con conoscenza del caso. Leggiamo. Si tratta, ovviamente, il verso è quello regolare, quasi frequentissimo in Baudelaire, che è Alessandrino, di cui già vi parlavo. Je n'ai pas oublié, voisine de la ville, notre blanche maison, petite mais tranquille, sa pomone de plâtre et sa vieille Vénus. Ah, non, non, non l'avete, scusate, io ho cominciato a leggere e non l'avete. Siamo cercando. Scusate. E non avevano fatto bene. Dunque, è la numero. Quindi, appunto, nel fervore che l'ho messa a dirigere l'orchestra, senza rendermi conto che non sapevate un tubo dove era, vedevo questa specie di angoscia sfogliante, la sfogliante angoscia degli studenti. 99, è il numero 99. Il numero romano è XC, se non lo leggete, 1X. XC1X. Ah. È stato molto ma io non ce l'ho però. L'avete trovato adesso? No. 99, è possibile che non ci sia. Siamo? No, come no? 99. X, C, I, X, per D. Così? Ci siamo tutti? Ah, ecco, dai, no. Ecco, non ho più vicino per me. Sì, ma la pagina c'è già. Ragazzi, però, dovete essere più agili di chiappa, come si suol dire. Ha capito qual è il concetto? Agili di chiappa, cioè bisogna... Provata? Tutti? Sì. Bene. Via. Religioso silenzio. Je n'ai pas oublié, voisine de la ville, notre blanche maison, petite mais tranquille, sa pomone de plâtre et sa vieille Vénus, dans un bosquet chétif cachant leurs membres nus, et le soleil le soir ruisselant et superbe, qui derrière la vitre où s'est brisée sa gerbe, semblait grand d'œil ouvert dans le ciel curieux, contempler nos dîners longs et silencieux, répandant largement ce beau reflet de cierge sur la nappe frugale et les rideaux de serge. Questa poesia è stata scritta, sessantasette più tredici, centottanta anni. Non ho dimenticato, vicina alla città, la nostra bianca casa, piccola ma tranquilla, la sua pomona di gesso e la sua vecchia Venere, in un boschetto stento che nascondeva le loro membra nude. E il sole la sera, ruscellando superbo, ruscellante e superbo, che dietro al vetro dove si spezzava il suo covone, sembrava occhio spalancato nel cielo curioso contemplare le nostre cene lunghe e silenziose, spandendo largamente i suoi bei riflessi di cielo sulla tovaglia frugale e le tende di saia. Dunque, è l'unico momento in cui la madre era per sé. Era per lui, no? Poi è arrivato Pic. Badate che Oppic era uno molto diverso dal papà. Come vi ho detto, il papà era uno che diceva che faceva il pittore, era un tipo scapestrato, era uno che aveva ceduto ai fascini della rivoluzione, faceva la carriera ecclesiastica, aveva buttato alle ortiche, come si dice, la tonaca. Era un artista, diciamo così. L'altro era un militare. L'altro era un militare tutto d'un pezzo, severo. Non era suo padre, un tormento. Vi ho già raccomandato di vedere un film bellissimo, uno dei pochi film, lasciando stare la paccottiglia e merda che qualche che esce normalmente, che si intitola Fanny Alexander di Ingmar Bergman, in cui c'è una situazione assolutamente analoga, ed è un film che vale la pena per la vostra formazione di scaricare da qualche parte. Fanny Alexander, l'autore è Ingmar Bergman. Gli oggetti d'amore se ne vanno. Questo è quello che dovete sapere. Quali se ne vanno? Tutti. Se ne vanno i bambini che noi amiamo, che sono i nostri figli, perché diventano grandi. E noi vediamo le fotografie di quando erano bambini e pensiamo, ma com'è possibile? Ma dove è andata a finire quel bambino? No? Avrete visto le facce commosse dei genitori quando guardano le fotografie dei loro figli piccini. E i figli che sono diventati? Sono diventati come lui. Eppure, che si chiama? Eppure, pensate, Simone, adesso non sia detto con spirito alcuno di offesa, ma pensate come doveva essere carino da bambino. Coinvolgiamo altri maschi. Giampiero, che continua a essere notevole, diciamo così, poi in questa sua età decisamente matura, ormai mi sembra, no? Ma pensate che bimbetto doveva essere, e anche per voi, signorine presenti, a volte ci sono stati risultati folgoranti, a volte meno folgoranti, diciamo così, rispetto, ma comunque tutti muoiono, i bambini muoiono, muoiono i fidanzati che non ci sono più, che ci hanno lasciato. I genitori, tutti, cazzo, muoiono. Questa potrebbe essere un'epigrafe da scriverla, è bella anzi, è bella da scriversi, tutti, virgola, fondamentale, tutti, cazzo, muoiono, no? Quindi questo bambino che aveva avuto tutto il conforto della compagnia esclusivamente materna, si trova poi l'anno dopo a non averla più. Perché lei era innamorata di Opidio Picchio, non è che si era sposata tanto. E quindi una delle offese più gravi che possono essere fatte a un figlio è quando il genitore si occupa più dell'altro, insomma, no? È una cosa terribile. E allora, come si usa fra amanti in cui uno ha lasciato l'altro, lui dice una frase bellissima. È una frase che dal punto di vista retorico possiamo chiamare litote, litote, cioè quando si nega l'opposto e dice così. Per esempio, litote vuol dire questa, attenzione, dovreste saperlo, comunque ve lo dico. Se io dico di uno che è un idiota, dico non è un fulmine di guerra, nego l'opposto, si capisce che è un idiota. Se io dico il tuo compagno non è un fulmine di guerra, si capisce che non è che penso molto di lui. Non ho dimenticato vuol dire che ho ben presente. Ma quando voi avrete consumato i vostri rapporti affettivi più bassamente di quanto la vostra età non vi conceda e ritrovate una vecchia fiamma, e le fiamme si ricordano, le fiamme si ricordano. Io proprio un quarto d'ora fa ho avuto notizia dal professor Piperno, mio allievo, conoscete il professor Piperno? Sì. Che ha incontrato una persona molto nota, quindi naturalmente io sarò estremamente attento a non dire nulla, molto nota, molto famosa, una signora, gli ha chiesto: ma cosa sei tu all'università? Dice: sono un ricercatore, dovrebbe essere di più, ma in realtà burocratica. Ma lei quanti anni ha? 10. E la realtà burocratica è quella che è, eccetera. Gli ha detto: ma allora è un capo? Dice: sì, sì. Dice: chi è questo capo? Gli ha detto: Enrico Guarano. Ma io ho avuto, ha detto questa persona molto volte, ho avuto un affair con lui all'università, e ha detto dei dettagli su come io ero allora. Sono arrossito, farmi arrossire è difficile, eh? E ho pensato: ma quanti anni sono passati allora? E però questa se lo ricorda ancora, anch'io lo ricordo, ma sapete, uno immaginavo di ricordarlo io, ma non la controparte. Ho avuto un senso di piacere profondo, devo confessarlo, perché nessuno di noi vuole morire agli occhi della memoria degli altri. E allora, quando uno incontra una persona con cui ha avuto una storia d'amore come e che non c'è più, e tanti dettagli ricorda, la cosa che gli dice è questa: io non ho dimenticato quello che c'è stato fra di noi. E questo io non ho dimenticato è pieno di un sottaciuto rimprovero. Non credere che io abbia dimenticato, perché mi ricordo sempre tutto. Gli anni sono passati e non hanno fatto altro che ingigantire il pensiero, perché poi, sapete, come diceva Flaubert, a un certo momento questi pensieri diventano sacri e noi li custodiamo come fossero dentro tabernacolo. Le persone amate, diceva Flaubert, ci guardano dal fondo del tabernacolo in cui li abbiamo messi dentro di noi. E quindi lui qui, rivolgendosi alla mamma, le dice: io non ho dimenticato. Che cosa è che non ha dimenticato? Aspettate che ho perso la pagina. Eccoci qua. Io non ho dimenticato la nostra casa. La nostra casa, vicina alla città, cioè vicina a Parigi. Non ho dimenticato, vicina alla città. Guardate come è scandita geometricamente il primo verso in modo simmetrico al secondo, sono scanditi esattamente a metà dopo la sesta sillaba. Non ho dimenticato, vicina alla città, la nostra bianca casa, Cesura, piccola ma tranquilla. Com'era la casa del piccolo Charles e della mamma? Era bianca? Forse, ma naturalmente l'aggettivo qui è usato in un modo pregnante. Cosa vuol dire avere nella propria infanzia, con la propria mamma, una casetta bianca? Cosa vuol dire? Purezza. Se io decido di vivere con una ragazza di 23 anni, una bella storia, dalle parti di Genzano, dai, mi allargo molto, cioè non è che vado a Maldive, eccetera, eccetera. È difficile che ricordi questa storia come vissuto in una casetta bianca, anche se la casa è bianca. Ma insomma, la sentirò con altre determinazioni di colore, ma con la mamma la casa è per forza bianca. La nostra casa bianca, piccola ma tranquilla. Qui c'è una citazione di Orazio che diceva, il poeta latino, che diceva: parva domus, povera casa, sed apta mi, ma adatta a me. In effetti, diciamo la verità, a nessuno di noi piacerebbe avere come casa, diciamo la verità, di avere come casa in cui abitare Versailles. No? Cioè, a parte l'IMU che uno si dovrebbe pagare sopra, che non è cosa da poco, pagare l'IMU su Versailles, sai, ma a parte questo, ma che te ne fai di una casa? Mettiamo che per esempio Angelica, lei ha un compagno, no? Non ce l'ha. E beh, ma forse sì, ce l'ha, sta mentendo. Dovesse andare a vivere in una casa con lui, le servono 8 stanze? E che ci fai in 8 stanze? Che ci fa? 10, 15, un convento? Ma che ci fa? Sa, una casa grande serve quando uno ha litigato e allora uno va in un punto dall'altro, se invece se... Però sostanzialmente noi la casa dei nostri affetti è piccola, deve essere piccola, la sentiamo come piccola. Poi con i tempi che corrono, voglio dire, se uno ha camera e cucina, già, no? Va bene, insomma. Ecco, se le regalano un appartamentino con camera e cucina, le va bene o non va bene? E bagno, Dico, però guarda che il tutto per te e per il tuo... Lei ce l'ha invece l'uomo, Ce l'ha, il tuo è, però il tutto è 60 metri quadri. Prendere o lasciare? Che fare? Ma cavolo, quanti grandi anni? No, forse sugli 80 metri è meglio. Piccola, ma come dice? Piccola, ma tranquilla, ma tranquilla. Tranquilla. Questo è un bel aggettivo, sapete? Tranquillo. Questa osservazione che vi sto facendo, questo è un bel aggettivo. Sapete chi avrebbe fatto questo tipo di osservazioni, chi le faceva? Un grande scrittore che voi seguite, che è Proust, diceva questo è un bel aggettivo, cosa vuol dire tranquillo? Noi sappiamo bene cosa vuol dire. Me lo dice lei cosa vuol dire tranquillo? Sono calma. Cioè, calma, non è agitata, comunque si lascia... Le piacerebbe avere una giornata tranquilla? Certo, naturalmente per una giornata in cui vince il Superenalotto è... Però io credo che ognuno di noi, anche per la vostra esperienza, sia pur limitata di vita che avete, sapete la bellezza della tranquillità. E adesso io ve la metto in questo modo, ma un rapporto amoroso tranquillo, lo chiediamo a un VAR qui vicino, un rapporto amoroso tranquillo, gli andrebbe? Lui nell'età terribile in cui ci si vorrebbe da parte maschile, gli uomini sono fatti così, scatenare ancora, però a tali vincoli familiari, figli eccetera eccetera, che rimane compresso, ecco, mi dica un po'. La tranquillità nella vita domestica, anche mantenere l'equilibrio e mantenere anche un clima di tranquillità, serenità. Oh, ci sono delle case in cui che non sono tranquille. Come diceva Flaubert, anzi, Baudelaire parlando di Flaubert, le porte claquer, boom, boom. Sapete che nei litigi familiari spesso uno apre la porta, la richiude sbattendola, ma per il gusto di sbatterla, per cui la riapre per risbatterla una seconda volta. Piatti, bicchieri rotti, no? Per cui tutti abbiamo in fondo un miraggio di tranquillità. Che vuol dire? Ma come? Ma la passione... Eh beh sì, certo, la passione. La passione per avere bicchieri rotti, cazzotti, botte... Una volta una mia allieva mi disse, io sogno un, era molto intelligente, sogno un uomo, mi ricordo ancora in questo momento, un uomo che sia malato e che mi meni. Malato e che mi meni. Ecco. Quando poi l'ha trovato, ha un po' cambiato opinione. Comunque non c'è dubbio che con la mano, la casetta bianca, piccola ma tranquilla, è il colmo della felicità. Un bambino quali pretese ha? Pochissime. Cosa avrà voluto fare Charles a quell'età? uno vuole stare con la mamma, come una bestiolina. Vicino alla casa, come si usava in quel tempo, c'erano delle statue ornamentali nel giardino. Si parla di giardinetti che stanno in una mano, Si parla di un boschetto, nella fattispecie, chétif. Chétif vuol dire misero. Mi seguite bene? È interessante vedere l'origine di chétif. Chétif viene dal latino, da captivus, cattivo, vuol dire prigioniero. Quindi un boschetto chétif è un boschetto tristanzuolo, è un boschetto misero. E lì ci sono due statuette. Come si usava nelle case di un tempo, di campagna? Una rappresenta Pomona. Pomona è una ninfa. Ed è la ninfa dell'abbondanza, no? Aveva una cornucopia, cioè una specie di grande cesto con sé, in cui c'era frutta, ortaggi. Ma questa Pomona, attenzione alla meraviglia, che quindi ti dà l'idea di una situazione di vita lussureggiante, no? È di gesso, cioè di materiale umilissimo, scadente. E in questo senso questa Pomona si addice perfettamente all'ambiente. A Pandan di Pomona c'è un'altra statua, quella di Venere. Venere è il simbolo naturalmente di che cosa? Della bellezza. Ma se voi vedete vecchia Venere, è mirabile questo simbolo. Come fa Venere a essere vecchia? Non è possibile. Quindi vecchia Venere vuol dire, nella fattispecie, una vecchia statua di Venere. Ma sentite anche che una vecchia Venere indica che è una Venere casareccia. Una Venere casareccia. Ma noi dove stiamo? Quando vogliamo stare in casa nostra, stiamo meglio in casa nostra, in una situazione alla Versailles o in una situazione casareccia. Io so che stiamo meglio tutti in una situazione casareccia, in cui lasciamo cenci di biancheria, sporco, pulita, abbandonati per le scarpe che si trovano nei posti più impensabili. Reggiseni, mutande che girano, no? Nelle case con molte ragazze, per esempio, io mi ricordo che una lì aveva quattro sorelle, quindi erano in cinque in casa più la madre. Era una cosa spaventevole la situazione di caos, però quella è una casa vissuta, è una casa vissuta. Tubetti di dentifricio, non era al tempo di moderno, c'erano queste abitudini igieniche. Ma insomma, queste statue casarecce danno l'idea di una vita umile e semplice. La sua Pomona di gesso, la sua vecchia Venere, in un boschetto miserando, nascondendo le loro membra nude. È chiaro che c'è proprio un contrasto fra queste membra nude e la miserabilità della situazione in cui si trova. E attenzione, quello che capita adesso. C'è una rappresentazione del sole al tramonto. L'immagine è questa. Il sole picchia sul vetri della casa. Picchia sui vetri della casa. E questo sole, la luce del sole, sembra, picchiando sui vetri, sembra un covone di grano. Il covone è un fascio di spighe di grano, e sembra questo sole che picchia sui vetri un fascio di spighe di grano, quindi il vetro diventa dorato e questa luce arriva morbidamente ruscellando, cioè arriva non d'un colpo, ma arriva, come dire, circondando, inondando, ecco, il vetro, inondando il vetro. È l'ora, per l'appunto, di cena. E il sole la sera ruscellante e superbo, certo, perché non perde assolutamente il sole nonostante questa morbidezza che ha nell'espandersi, nel dilagare sui vetri, non perde naturalmente il suo orgoglio, la sua superbia, che dietro al vetro dove si spezzava il covone, che quale sole, dietro al vetro dove si spezzava il covone, sembrava, quindi guardandola da dentro a fuori, sembrava, che cosa sembrava il sole? Occhio spalancato nel cielo curioso, un grande occhio sembrava il cielo, un grande occhio nel cielo che guardava la vita di questi, di queste due persone. È come se l'occhio del sole, questo innocente voyeur che diventa il sole, si introducesse nella vita della mamma e del bimbo per guardarla. Guardate come l'aggettivo curieux implica anche qui un qualcosa di tranquillo, semplicemente curioso. Non vuole violare nulla il sole, vuole semplicemente curiosare nella vita della mamma e del bimbo. Sembrava occhio grand ouvert, lo vedete quel grand ouvert? Grand ouvert vuol dire in francese spalancato, quindi dovete leggerlo così. Grand œil ouvert, occhio spalancato nel cielo curioso, contemplava le nostre cene lunghe e silenziose. Ora la domanda che vi faccio è questa: sono mamma e bimbo che stanno cenando, perché sono lunghe queste cene? Chi è che mi sa rispondere? Mi sa rispondere lei? Perché sono lunghe? Questa è una bellissima osservazione, questa è una bellissima osservazione. Noi deformiamo naturalmente la memoria le cose, però c'è un'altra spiegazione. E io la metto sulla buona strada, vi metto sulla buona strada dicendovi: no, no, è vero questo, ma è anche vero che erano effettivamente lunghe. C'è qualcuno che sa rispondermi? Perché erano lunghe? Perché? Chiacchieravano? No, perché lo dice da poco dopo, che erano cene silenziose. Quindi qual è il motivo per cui erano lunghe? Si guardavano, sì, ma questo non basta. Perché mancava qualcuno? No, no, no, no. No, no. Ma sapete cosa vi dico? C'è qualcuno di voi che è sposata, ragazze? Che ha un bambino illegittimo, qualcosa? Questo denota il vostro stato, non dirò virginale, quello neanche a 3 anni, il caso vostro. Ma vediamo un poco se una persona che ha figli mi sa dare una risposta. Perché una cena con un bambino è lunga? Perché i bambini sono lenti. Perché i bambini sono lenti, non vogliono mangiare, bisogna imboccarli, vedi, basta avere... Devi fare giochetti. Quando c'era il risotto, avete presente il risotto? Non l'ha presente il risotto. Mia zia, che mi ha allevato, faceva nel risotto alla piemontese, è una cosa assolutamente fantastica, faceva delle stradine, delle piccole torri, dei castelli, no? Dicendo: mangia un po' questo, mangia un po' quello, perché io non volevo assolutamente mangiare, no? Come si cambia poi l'interno? Come si cambia l'interno? Non volevo assolutamente mangiare, allora lei faceva queste cose. I bambini dopo un po' si scocciano. Se voi andate in un ristorante, vedete quando ci sono i bambini a tavola, dopo un po' i bambini escono da tavola, vanno via, giocano, si muovono, corrono. Ecco, quindi ecco perché queste cene sono lunghe. Silenziosa, perché come ho scritto, io sottoscritto che vi sto parlando, ma che ha da dire un bambino alla mamma? E un bambino di 6 anni, che allora viva la mamma? Ma soprattutto, attenzione, che ha da dire una mamma a un bambino? Da dargli degli avvertimenti, ma non è che possono mettersi a parlare di filosofia. Di che parlano? E allora voi la vedete questo bambino che sta con il cucchiaio, con la forchetta, sbattendola sul tavolo, non mangiando, distraendosi, mangia. I bambini si distraggono. Quando avete figli, e dovete, anche nella realtà molto anteriore, quando sono piccoli, e dovrete usare il biberon, sapete che cos'è il biberon? Lei non lo sa cos'è il biberon. Un sistema, per esempio, io ne ho lunga pratica, invece mia figlia l'ho allevata integralmente io, era che a un certo momento con il biberon glielo metti, questo ve lo dico, è un consiglio utile, loro si addormentano e allora con il biberon devi stuzzicargli il palato perché si sveglino, e allora che prendono a succhiare, perché altrimenti non c'è niente da fare, il bambino si addormenta e se si addormenta è finito, però deve prendere tutto il suo biberon, no? Dunque, e questo sole spandeva largamente i suoi bei riflessi di cero sulla tovaglia frugale, riflessi di cero, cioè una luce morbida, arriva una luce morbida sulla tovaglia frugale, perché? Perché è povera questa casa, è povero il desco. Sono poveri, hanno poco da mangiare, no? E la tovaglia stessa è fatta di saia, cioè la saia è un tipo di stoffa con una caratteristica di una, come dire, di una cucitura obliqua che rende la stoffa più resistente. Non puoi immaginare che questa mamma e questo bimbo cenino su delle tovaglie meravigliose di lino ricamate. Come sarà avvenuta? Quanti piatti saranno stati usati per questa cena, secondo voi? Quanti piatti? Quando vedo lei, però, guarda, lei per me è indimenticabile. Non lo chiede neanche noi, perché lo so benissimo. Dunque, ascolti bene, quanti piatti si usano in una cena con un bambino? Due, ma nemmeno, ma uno, perché lo asciughi poi, insomma, in una condizione povera. Quante forchette? 5 forchette? Ma che 5 forchette? Forchetta, coltello, cucchiaio. Oh, ascolti un po'. Attenzione, il bicchiere per il vino ci sarà? No. Evidentemente. Quindi pensate come tutto è semplice. Ebbene, questa semplicità di amore e di vita comune, semplicità di amore e di vita comune, diventa il centro delle tue nostalgie. Abbiamo giudito. Interessante.